Allora, prima di iniziare l'assemblea vera e propria con la relazione della compagna Iette, diamo una breve informazione alla compagna, Valeria, scusami che non mi ricordavo il tuo cognome, ma può dirsi anche con... Io per i nomi sono un disastro. Non so come mi chiamo io, Vincenzo è lui. Io mi chiamo Aristodemo. Va bene, prego. Vuoi sederti? Tieni. No, tanto anche dare in piedi sono seduta. Information about a demonstration. Sì, immagino che tutti sappiate che in Iran è in corso una rivoluzione. Indipendentemente da come andrà a finire, con ogni probabilità, almeno per molto tempo, male, però c'è un movimento rivoluzionario che ha preso tutte le strade dell'Iran in un numero incredibile di città e che si è esteso anche nelle campagne, che riguarda anche centri che non avevano un interesse, un'importanza dal punto di vista dello sviluppo né economico né politico, che adesso sono invece scesi in sostegno di questa manifestazione che è chiaramente soprattutto giovanile, molto giovanile. Immagino che sappiate che ci sono già più di 400 morti, migliaia di feriti, migliaia di arrestati con minaccia di impiccagione, cioè non è che si scherza laggiù. Lo so che qua abbiamo già l'Ucraina, ci abbiamo già i cazzi nostri. Penso che sia importante comunque, non solo dal punto di vista così volgarmente umano e da quello internazionalista, sostenere questa rivoluzione, che vuole l'abbattimento del regime, lo Stato laico, la parità e l'uguaglianza uomo-donna e l'autodeterminazione, finalmente. Ecco, penso che questo sia sufficiente per sostenerli, è un movimento assolutamente laico. Noi non ci facciamo, senza avere un contatto, difficile farsi un'idea, ma statisticamente per le statistiche ufficiali c'è almeno il 30% di popolazione che si dichiara non religiosa o atea. Dunque, il fatto è anche che è una rivoluzione che comunque promette di interessare il resto dell'America Latina, del Medio Oriente, dove ci sono stati movimenti rivoluzionari anche importanti, soprattutto in Iraq, che noi non ci siamo filati neanche in lontano, ma che è un movimento importante, orientato, chiaramente quello iraniano è molto meno orientato. Sono laicisti, sono per l'indipendenza culturale, sono per l'autodeterminazione, però le correnti sono le più diverse, ovviamente. Tutte le rivoluzioni, soprattutto al loro inizio, sono trasversali. Bene, domani alle 3 del pomeriggio, da Porta Venezia, parte una manifestazione dei giovani iraniani e io invito a essere con loro. Bene, prima di passare dico anche io una parola sulla questione detta dalla compagna. Volevo dire che noi come Partito Comunista dei Lavoratori siamo totalmente al fianco della rivoluzione iraniana, siamo indignati da quei che poi normalmente sono anche putiniani, da quelli che scrivono i messaggi dicendo guarda caso è successo nello stesso momento, e quindi è il complotto complessivo di Soros, di Biden, eccetera, eccetera. Queste schifezze noi le respingiamo al mittente, è una vera rivoluzione nei termini esatti che ha detto la compagna. Voglio ricordare che anche noi, il nostro movimento, il movimento trotskista, ha avuto un ruolo piccolo ma reale nella rivoluzione iraniana del 79, poi furono ferocemente repressi, alcuni dirigenti anche sono stati in prigione per 30 anni prima di essere liberati, quelli che non li hanno fatto fuori, no? E tra l'altro è interessante vedere oggi la risposta di una parte della classe operaia, ma tra questi ci sono ancora gli operai del petrolio del Kurdistan, cioè la zona che poi è araba, di parlata araba, perché in quel periodo i primi arrestati furono proprio gli operai del petrolio, c'erano anche i titoli di giornali, i trotskisti, gli operai del petrolio sono i primi arrestati oggi tra noi da parte degli elementi democratici, perché effettivamente c'erano qualche compagno dentro e poi erano appoggiati dall'HKS, che vuol dire Partito Socialista dei Lavoratori, però poi dopo andarono avanti nella repressione. E io ricordo, e poi concludo, poi cercheremo anche di pubblicare documenti, abbiamo pensato di ripubblicarli in inglese, poi vediamo se riusciamo a tradurre dei compagni dell'HKS, che anche nel movimento trotskista internazionale, da quelli più moderatoni o più, diciamo, illusi, no? Furono un po' abbandonati, perché loro fecero la grande battaglia iniziale, fu una grande battaglia, perché c'erano le Shoras, che vuol dire Consiglio Operai, che erano Shoras indipendenti, cioè, e il movimento comeinista disse che bisognava islamizzarsi, bisognava islamizzare, cioè metterli sotto controllo. I compagni fecero battaglia contro l'islamizzazione e Shoras, e nel mondo anche l'estrema sinistra, anche qualche pseudo trotskista in realtà, ma con peso, disse: ah, siete settari perché lì le masse sono islamiche, come si fa a dire contro l'islamizzazione, bla bla bla. E poi dicevano che il problema reale erano i militari e non Khomeini, che Khomeini era un po' il Kerensky della situazione, che poi ci sarebbero stati i cornici, cioè avevano capito niente, cioè che la controrivoluzione non era da venire, era già venuta e stava venendo con i mullah, eccetera eccetera. Noi ricordo i volantini, vediamo se una volta riusciamo a ritirarli fuori, né Shah né mullah, governo operaio e contadino. Con questo fu la nostra posizione, e ripensandoci ne siamo anche ad oggi assolutamente assolutamente orgogliosi. Quindi credo che l'impegno oggi, non solo perché c'è questo non so passato, anche non ci fosse mai stato nessun trotskista lì, va bene lo stesso, però a maggior ragione visto che ancora oggi alcuni vecchi compagni che hanno fatto quell'esperienza, che sono in Francia con qualche giovane, fa una struttura che in Francia è abbastanza forte, c'è anche l'adesione ufficiale della CGT nazionale, qui in Italia non si capisce perché non c'è niente di simile, che si chiama Solidarietà Socialista con l'Iran, e fanno un grosso attività anche aiutando quelli che poi i vecchi militanti che escono dopo decenni di prigione e riescono a raggiungere l'Occidente, insomma. Quindi questa è l'ultimissima cosa, veramente io spero che di non vedere più, come ho visto in una manifestazione, non mi ricordo, antiimperialista, che una compagna col velo, preciso, noi la nostra posizione, una se vuole mettersi il velo se lo mette, non siamo per le leggi alla francese, chiara, però che una mi venga a dire tra l'applauso di gente, poi tra vestite, magari minigonna, c'era ragazzi, perché era, dice il velo non è uno strumento di oppressione, che questa è una calunnia imperialista, in realtà è uno strumento di libertà, lo vado a dire in Iran. Poi se una vuole essere clericale, se uno vuole portarsi la croce qui, noi non siamo, siamo anticlericali, ma non siamo per proibire le forme religiose, e quindi si metta il velo, per favore, non confondiamo fenomeni di tradizionalismo reazionario con forme di anti-imperialismo, perché poi abbiamo visto che non è stato così. Grazie, e allora io passo la parola alla compagna Iette, la presento Iette, per precisare, è una compagna giovane, come vedete, è una grande compagna che io conosco da più di 40 anni nella militanza nel movimento trotskista internazionale. Lei è una compagna che fa parte del SAP, Partito Socialista Operaio, che a sua volta fa parte della cosiddetta Unity List o Blocco Rosso Verde, che ha circa il 5, 6, 7% alle elezioni e ottiene molti deputati. Naturalmente lei è molto critica delle posizioni riformiste di sinistra di questa raggruppamento, e quindi come militante del SAP, come militante dell'Unione di Liste, cerca di costruire da tempo una opposizione di sinistra, e poi fa parte della nostra corrente internazionale recentemente a congresso opposizione trotskista nazionale con un ruolo dirigente, perché nel suo esecutivo internazionale I presented you, maybe you understand. E ora lascio la parola alla compagna Iete sull'argomento di questa sera. I don't know what he told about me, but it's probably not true. Nothing bad. It's probably not true, any of it. So, it's very, it's okay, it's okay. Can it be a little higher? Non credo che sia molto. Ah, sì, sì. Perfetto. Yes. So, I'm going to tell you a little bit about the changed role of Scandinavia, its new military role as a sort of front line of the Western European imperialism against Russia. Voglio spiegarvi un po' adesso il ruolo dei nuovi governi, nuovi gruppi dirigenti della NATO, che hanno un nuovo ruolo militare come, come espressione di prima linea dell'imperialismo. The Scandinavian, which used to be the human face of imperialism. La Scandinavia è stata tradizionalmente il volto umano dell'imperialismo. Is now gathered around a military task. E adesso invece viene posta in un ruolo di compiti militari. But before I go to talk a little bit more about this, I want to tell you a small anecdote. Prima di parlare di questo vi voglio fare un piccolo aneddoto. Una cosa, preciso che il traduttore non è professionale, quindi se faccio degli svarioni che siete sicuri, I try to explain what, degli svarioni che siete sicuri che siano svarioni, perché ogni tanto sono stato interrotto da uno che invece lo svarione lo faceva lui, ma che siete sicuri che siano svarioni, mi interrompete, dice no, non ha detto questo qui. And senza problemi. I'm doing it much more difficult because I've written down a script which I do not follow. Lo farà il massimo possibile in maniera che non riesca a seguirla. Ok, cominciamo. We go to the anecdote. Andiamo all'aneddoto. So, I want to give you this little illustration of how close this inter-imperialist rivalry has come to at least my personal life as well as all other people in Scandinavia. Io faccio un piccolo aneddoto per indicarvi come questa contrapposizione ora di linea imperialista con verso l'altro imperialismo, il russo, tocca le persone normali, parlando di una cosa che ha toccato a me come ha toccato a altra gente. I have a small farm in a little island in the Baltic Sea. Ho una piccola fattoria nella pianura, nella campagna, nella isola di Bornholm. About 24 kilometers from my farm, out in the sea. Circa 40 km, how many kilometers? 24 chilometri, 24 chilometri dalla mia fattoria. There was an explosion. C'è stata un'esplosione. This explosion was a gas pipe. E questa esplosione è stata quella del pipeline del gas. So it was 80 meters under sea level. 8 metri sotto il livello del mare. And it was like a huge cascade. ed è stata una grande cascata. And so in the Baltic Sea there's a heavy traffic of Russian ships because it's their way out to the what is it? The Northern Sea. What is the name in English? I don't know. Perché nel Baltico c'è un grande traffico di navi russe perché la via d'uscita da, vabbè, non lo chiamiamo credo Baltico lo stesso, Golfo di Finlandia, non lo chiamiamo Golfo di Finlandia, we call it Golfo di Finlandia. Yes, Finland is at the il mare top, del nord. At the top of this, at the north of this sea. A nord di questa isola. So Russia depends completely on passing through this water, these waters to get out. La Russia dipende assolutamente dal passaggio in queste acque. And the history also explains something about how close these relations and how close these lands, these countries are. La storia dimostra chiaramente come sono vicine, cioè sono legate questi paesi e come dipendono l'uno dall'altro. Bornholm was occupied by the Russians during the Second World War and Copenhagen seemed to forget about it. Bornholm fu occupata dall'esercito russo alla fine della Seconda Guerra Mondiale e Copenaghen sembra dimenticare questo fatto. I think also it underlines the proxy something. Anche lei non è inglese, ricordate. Between Russia and Finland. Non c'è bisogno di ricordare la vicinanza tra Russia e la Finlandia. There's a 1400 kilometers common. 1400 chilometri di frontiera comune. And they used to drink a lot of coffee at the borders between them. E sono abituati a bere un'immensità di caffè ai confini gli uni e gli altri. So this has all changed and the start of a building up of a confrontation is taking place. E questo è totalmente cambiato ed è iniziato a porsi uno scontro a questi confini. The expansion of NATO with Sweden and Finland, I think, is the most reactionary example of this whole process. L'espansione della NATO in Svezia e Finlandia è il significato più importante e reazionario della preparazione che c'è da una parte all'altra. And behind this all is that the US is now focusing its forces on China and withdrawing its interest from away from Europe. Bisogna ricordare che gli USA hanno focalizzato oggi il loro interesse sulla Cina e hanno un po' ritirato il loro interesse rispetto all'Europa. So Scandinavia and in fact Europe is left to its own armament. E nei fatti la Scandinavia e l'Europa sono stati lasciati al loro armamento o riarmamento. So of course this represents an enormous change in the economy of these countries. Questo ha rappresentato un cambio enorme dell'economia di questi paesi, quelli della Scandinavia e dell'Europa. Also the relation between the Scandinavian countries is changing by this whole process. Anche le relazioni tra le varie nazioni scandinave sono cambiate durante questo processo. Sweden and Finland has had in the past very little common coordination of their military. la Finlandia e la Svezia hanno avuto in passato molta poca coordinazione della loro preparazione, delle loro forze militari. And now the Scandinavia is going to be forced into a situation in which they in some way form a common military block. Ora la Scandinavia è stata costretta in una situazione in cui forma una specie di blocco militare. This is something completely new. Questo è qualcosa di completamente nuovo. Because each of the countries of the Scandinavian countries has had its own specific and very different approach to military armament on the national basis. E questa è una novità anche perché fino ad oggi ciascuna nazione scandinava aveva il suo proprio separato atteggiamento rispetto all'armamento militare e alle caratteristiche specifiche di tale armamento. Of course the Swedish neutrality is and has always been a sort of illusion. Naturalmente la cosiddetta disarmo della Svezia era una grande illusione. But neutralità della Svezia era una grande illusione. It has had a perspective of a national defense. Ha avuto una prospettiva di difesa nazionale. Very much financed by its weapon production and export. Largamente finanziata dalla produzione di materiale bellico e dalla sua esportazione. And on the contrary, Denmark has had no national defense. Al contrario, Danimarca non ha mai avuto una difesa nazionale. It has been completely preoccupied by tailing the US in all its aggressive steps all over the world. È sempre stata preoccupata di stare dietro agli Stati Uniti, appoggiare gli Stati Uniti in ogni loro politica aggressiva in tutto il mondo. It has participated in the US military aggressions in the NATO, in the United Nations, the Danish special forces has been, they have been all over together and behind, loyally behind the US. E le truppe danesi sono sempre state dentro le aggressioni della NATO, degli Stati Uniti, e delle Nazioni Unite in tutto il mondo, sempre partecipando dentro e dietro gli Stati Uniti. So now this must change because the whole orientation now will more or less be for a national building up of military force. E adesso questo è cambiato perché la scelta è stata di rivolgersi anche lì alla costruzione di una forza nazionale, non di forze speciali che intervenissero dietro gli Stati Uniti nel mondo. You of course know, and we've just mentioned the fact that Sweden has played the role of a neutrality. Io vi ho appena detto il fatto che la Svezia ha avuto il ruolo di sedicente neutralità nel passato. The illusion of that is illustrated by several facts. One is that the Swedish Nazi Party was quite strong during the Second World War. La falsità di questo è stata dimostrata dal fatto che il partito nazista svedese era piuttosto forte durante la Seconda Guerra Mondiale. And it had big commercial interests in transporting German military stuff through Sweden. E c'è stato un grande interesse nel trasportare materiali di guerra tedeschi attraverso la Svezia. So there are also another point which says something about the Swedish neutrality. Un altro punto può dire qualcosa sulla cosiddetta neutralità svedese. Is the fate of its prime minister Olof Palme. il ruolo del e quello che è avvenuto al primo ministro Olaf Palme. He was sort of a bourgeois dream of humanity. È stato una specie di verde esempio di umanità borghese. To be humanistic. Essendo un umanista. And one of the actual progressive things he did was to open the borders of Sweden for the Kurdish political refugees. La cosa più importante è aperto la Svezia ai rifugiati curdi. So at the point where he was starting to negotiate and should have a meeting with the Russian top politicians, he was murdered in the street. Al momento in cui stava cercando di aprire un negoziato con la direzione del governo russo, è stato ucciso in strada. And as far as everything points to, the murder was done by the underground waiting cells. Da quello che si sa, la morte è stato l'assassino è stato organizzato da una cellula segreta. The counter-revolutionary cells linked to the CIA and to the Swedish intelligence. Una cellula segreta legata alla CIA e ai servizi segreti svedesi. So it was a work done by these forces combined with the CIA. E quindi è stata una cosa fatta da queste forze insieme con la CIA. So, since the 80s, the neoliberalism has been the order of the day in Sweden as in the other parts of Europe and Scandinavia. Dal 1980 il periodo del neoliberalismo si è aperto in Svezia come in altre parti d'Europa e anche della Scandinavia. And so the background to the NATO inclusion of Sweden and Finland in NATO is the weakening of the class, of our class. E in questo senso la premessa per far inserire la Svezia e la Finlandia nella NATO è stato indebolire la classe. So this situation comes at a time where the class has hardly any leadership. Reactionary wave, so to speak, comes at a time when our class in Scandinavia and here probably has no political leadership. Questo attacco è venuto nel momento in cui la classe operaia in Scandinavia, come forse anche qui, non aveva una direzione politica. So I want to give you an example of how this works out in the case, in a very special case in the Swedish Parliament. Io posso vi faccio un esempio di come questo è avvenuto in un caso specifico nel Parlamento svedese. It is the scene is a minority Swedish government. C'era un governo di minoranza. It's leaning on a left reformist party. Era in linea con un partito riformista di sinistra. The leader, era alleato con un partito riformista di sinistra. The leader of this left reformist party, it's called the Left Party, happens to be a Kurdish woman. La leader di questo partito di sinistra, che si chiama Partito di Sinistra, è una immigrata curda. And it happens that the political leader of Turkey, Erdogan, è avvenuto che il leader politico della Turchia, Erdogan. He puts forward one condition to Sweden: you can not become member of NATO unless you give me or your Kurdish political prisoners from Sweden. E il leader politico turco Erdogan ha posto una condizione, ha detto non potete diventare membri della NATO se non mi ridate i rifugiati politici curdi. But the Kurdish leader of the Swedish left party also has a condition. Ma il questa leader del partito di sinistra, questa compagna curda, anche lei aveva una condizione. She happens to be the one which the government depends on, her one vote. Che questo partito era quello a cui il governo dipendeva per avere la maggioranza in Parlamento. So she demands that this demand from Erdogan is put down by the Swedish government, or she will topple the government. E ha demandato che questa richiesta venisse respinta dal governo svedese, se no ha detto facciamo cadere il governo. The bourgeoisie does not really care if it's a social democratic government or it's some other bourgeois forces in the parliament. La borghesia in realtà se ne frega totalmente se il governo è socialdemocratico di qualche altra forza borghese nel Parlamento. There is no principle difference. Non c'è differenza di principio nella loro politica. So what happens is that the social democratic minority government refuses the demand from the Kurdish woman. E quello che ho accorto è che il governo di minoranza socialdemocratico ha respinto la richiesta della compagna curda. And the government falls. E quindi il governo è caduto. So the process of Sweden joining NATO is starting by the Social Democrats. Quindi il processo per cui la Svezia sta entrando nella NATO è stato iniziato dai socialdemocratici. And it's fulfilled by the new bourgeois government with other parties. Ed sarà portato avanti da un nuovo governo degli altri partiti borghesi. But in this process, ma in questo processo, the Kurdish refugees in Sweden they have been sold. Ma in questo processo i rifugiati curdi in Svezia sono stati venduti. And the very courageous individual action of the leader of the left party turned out to be with no effect. E quindi la coraggiosa azione di questa leader del partito di sinistra non ha avuto risultati alla fine. And I think this is a very good illustration that the only force that can change the political scene is the independent action of the working class. There is no individual, even I think this is an example of a real tough woman that is doing real tough job toppling the government she's a principled and doing a great job, but it has no effect. E questo dimostra che solo i risultati possono ottenere solo con l'azione indipendente della classe operaia, perché questa donna è stata veramente coraggiosa, è stata dura, ha mantenuto la sua posizione, ma alla fine si è perso, perché non può essere con un gioco di questo tipo parlamentare che si possono risolvere i problemi. I do not have to tell you, comrades, that a revolutionary alternative is needed to solve this very very crucial and very evident and very serious problem of the situation of our class. Non devo spiegarvi a voi, compagni, che una azione rivoluzionaria è necessaria per cambiare questa situazione negativa della nostra classe. Um, I'll just say very few words about Finland. Adesso vi dico poche parole sulla Finlandia. One of the very good reasons is that I don't know much of it. È una delle ragioni principali che non conosco molto sulla situazione finlandese. Is Finland has in Scandinavia a bit of a strange cousin. La Finlandia è un po' nella Scandinavia come se fosse il cugino strano. It has such a different history and immensely different language. Ha una storia così differente, è un linguaggio così totalmente differente. I mean, it was a colony of Russia. Era una colonia della Russia originariamente. They had the attempt of a socialist revolution. E c'è stata quasi una rivoluzione socialista lì. And it was smashed by Nazi fascist forces. Che fu sconfitta dalle forze fasciste. And the language is completely different. I mean, all the other languages in Scandinavia are like different brands of the same language. È un linguaggio totalmente differente. Tutte le altre lingue in Scandinavia sono varianti della stessa lingua. So this has meant that there is not this common ground, so to speak. There's no hostility at all. That's not the question. But there's also not sort of a daily life together, so to speak. Quindi non c'è stata mai una comunanza, diciamo, tra questi paesi. Non c'è razzismo, non c'è ostilità, però non c'è mai stata un sentimento, diciamo, e un rapporto come se si fosse popoli vicini. But no doubt there'll be the necessity to have a common, more military collaboration in the area. Ma naturalmente non c'è dubbio che adesso hanno bisogno di una maggiore collaborazione in tutta l'area, quindi anche nella Finlandia. I don't want to go into the economy of the situation. It's obvious that having had neoliberalism since the 70s, mid-70s, late-70s, and having had a situation in which class collaboration has been annihilated by the bourgeoisie, it has no interest in class collaboration anymore. So it means that the whole immensely strong and old tradition of reformism and the working class bourgeois parties has collapsed completely in this period up till today. Non entro nelle situazioni economiche e della situazione della classe. Certo è che avendo avuto una politica neoliberale fin dalla fine degli anni 70 c'è stata una politica di collaborazione di classe, ma oggi questo è finito perché non c'è più necessità del ruolo di collaborazione della socialdemocrazia, di questi partiti operai borghesi, perché si sono distrutti nel loro ruolo facendo la collaborazione di classe per decenni. So this of course means that the wonderful dream of the welfare of the class has been destroyed. Questo significa anche che il grande sogno del grande welfare, bel welfare per la classe è stato distrutto. So I think it's only really the only layer which really believes in this now. L'unico settore sociale che ancora crede in questa cosa ora, ancora oggi. In some way it's a certain layer amongst the left reformists. Un certo settore della sinistra riformista. It dawned on me when I, in this little island Bornholm, for the first time joined a meeting, a little party of the local neo-reformist unitylist. Quando io, per esempio, in questa isola Bornholm sono andato a vedere per la prima volta un meeting in questa piccola isola di questi riformisti di sinistra. And suddenly I understood at another higher level, so to speak, the main ideologists of the unitylist of the left reformist party. E io così ho visto che i maggiori ideologi anche di questa lista di sinistra, unitylist, rosso-verde. He has written a book, Northern Socialism. Che ha scritto un libro, il socialismo del nord. And his idea is that in a way we already have socialism. E la sua idea è che malgrado tutto noi abbiamo il socialismo. We have the public health service and so on. Noi abbiamo il servizio pubblico sanitario nazionale, eccetera, eccetera. What we need is to expand our co-ops, cooperative shops. Bisogna espandere le nostre cooperative, le nostre vendite, il nostro ruolo. And to have a more mixed economy. E avere una economia più mista. When I visited these guys in Bornholm and saw their daily life and home. Quando questo è arrivato a Bornholm e ha visto la vita quotidiana. I understood why they think that socialism is already here. Ho capito perché pensa che il socialismo c'è già. They had all jobs, very nice jobs. Ci sono tutti i lavori più belli. In this little NGO or that NGO make where they made progressive decisions and they had influence, they had people respected them and so on. Perché ci sono tutti questi piccoli lavori nelle organizzazioni non governative, questa, quell'altra, sono rispettati, fanno dei progetti, eccetera. They had the most amazing farm. Ci sono le fattorie più belle. With a view over the sea. Con la visione sul mare. And they had thought that it would be fun to do a little shop in this farm. E che lui avrebbe voluto costruire, avere una piccolo negozio in una di queste fattorie. Where they sell the best coffee. Dove vendere il miglior caffè. So, coming back to our situation of the class. Ma tornando adesso indietro alla nostra situazione della classe. This is the leadership which the class has. E questa è la direzione che la classe c'ha. They have no relation whatsoever to the class, these left reformists. Questi riformisti non hanno nessun collegamento con la classe reale. So what has happened is that this party, and this goes for the Danish left reformist party, which is called the Unitylist, it goes for the Swedish, even our Kurdish woman made a fight, it goes for the Norwegian, and I don't know about Finland. I think they don't have a left reformist party. I've never heard about it. E quindi questi riformisti di sinistra e il paragone, il collegamento può essere col partito, che questo di danese si chiama Unitylist, quello svedese si chiama lista di sinistra, cioè la sinistra si chiama sinistra, non conosco una cosa analoga in Finlandia. All these parties have met now their 1914. Tutti questi partiti hanno avuto ormai il loro 1914. They're all supporting their own bourgeoisie in terms of NATO. Tutti sostengono la loro borghesia nei termini dell'adesione alla NATO. And also they have gone from a more petty bourgeois nationalist resistance to the EU. They've gone to a position of we can reform the EU from within. E quindi passano anche da una resistenza piccolo borghese contro l'Europa Unita a un discorso di riformare l'Europa Unita dall'interno. So this is I think the final transition for the left reformist parties into full blown supporters of their imperialist masters. E quindi credo che questa sia la transizione finale di questi partiti, queste direzioni di riformisti di sinistra al sostegno completo con la loro borghesia nazionale. I just want to give you one more information about. Vi voglio dare ancora un'informazione sulla. Because it seems that all these types of major changes. Perché sembra che questa tutti questi tipi di grandi cambiamenti. They always sort of involve all the other crises of capitalism in one way or another. Tutti coinvolgono le altre crisi del capitalismo in una maniera o nell'altra. And the example of how this has influenced Greenland. L'esempio è come questo ha influito sulla Groenlandia. Greenland is a Danish colony in its old meaning. La Groenlandia è una colonia della Danimarca nel significato tradizionale di colonia. At the point after the Second World War, where there was a sort of cleaning up of the colonialism of the older type. Nel secondo dopoguerra, quando c'è stato, diciamo, una sorta di pulizia del vecchio colonialismo. The Danish state cheated on this commission which was working on these things. Questo periodo la Danimarca ha parlato di una commissione che veda com'era la situazione rispetto alla Groenlandia. They changed the status of Greenland from a colony to a Danish region. Ha cambiato la situazione della Groenlandia da colonia a una regione della Danimarca. And this is I mean, of course it's absurd to talk about Greenland, which is I don't know how many hundred times bigger than Denmark, lying in a different area of the world almost. E questo è anche ridicolo, perché la Groenlandia non so quante volte più grande della Danimarca, è anche in un punto differente. And has a population which has a different culture, different language, different everything, different history, different everything. È una popolazione che ha una differente lingua, differenti tradizioni, differente storia, differenza in tutto. But that does not prevent and did not prevent the Danish government from making a secret agreement with the US in the 50s. Ma questo non ha impedito un accordo con gli Stati Uniti negli anni 50. A social democratic government. Da parte di un governo socialdemocratico. It was decided that there should be no nuclear armament on Danish grounds. È stato deciso che non ci sarebbero stati armi nucleari sul territorio danese. But secretly the Danish government agreed with the US to make a base in Greenland with nuclear arms. Ma segretamente il governo socialdemocratico si è messo d'accordo con gli Stati Uniti perché questi ultimi avevano una base segreta nucleare nella Groenlandia. No people in Greenland were asked. Non nessuno in Greenland lo sapeva. Unfortunately, a plane crashed and a bomb contaminated the big area. E sfortunatamente un aeroplano è caduto e ha contaminato un'area grande. So that was all forgotten. Quindi tutto questo è dimenticato. Except of course all the people living in that area who had to be pushed out and put in another area where they couldn't survive, because it's not that you can just change the precision of a group of people who are living from fishing and hunting and this type of activities, and you cannot just put them in another place. They die of hunger because there's nothing to for them to catch. Quindi questa cosa è stata dimenticata a parte da quelli che hanno subito questa cosa, che hanno sono stati evacuati in altre aree con tutti i problemi che c'erano, perché gente abituata a cacciare, a pescare, non è facile trovare un'altra area che possa essere analoga per loro. All this was in a way remembered when Trump suggested to buy Greenland. Tutto questo è stato ricordato quando Trump ha proposto di acquistare la Groenlandia. I think this is a new invention at an even more strange level of trading in slaves. E questa è una nuova forma, è una nuova invenzione sul rispetto quasi alla tratta degli schiavi. Historically, you have bought the slave traders have bought slaves, a ship full of slaves or some individual groups of slaves. In this case, it's a nation of about 60,000 people who are being sold. Nella forma di perché all'epoca c'erano le navi che trasportavano ciascuno un certo numero di schiavi, qui addirittura era proporre di acquistare in blocco un'intera nazione per schiavizzarla. So this was the Trump proposal was too close to the national pride, I think. E questo per questo la proposta di Trump era troppo vicina, nel senso troppo che colpiva troppo l'orgoglio nazionale, quindi non ha potuto essere. So at the present the surveillance of Greenland is done by dog sledge. Sorry. The dogs in front of a sledge on the ice. No, ho capito però l'inizio. Sì, cani da slitta, ma l'inizio da all the phrases. The coastline of Greenland is the only place where you can do some surveillance because the rest is ice. La costa del sud della è dove si può semplicemente dove si può abitare perché il resto è ghiaccio. And the only practical way to not be in the water and not be in the air but actually on the ground is to have dogs. L'unico modo per cui si può andare senza essere in acqua o su un aeroplano è guidando una slitta di cani. In front of the sledge, and then you have maybe two or three men, normally it's men, who are in charge of this, and they patrol these thousands and thousands. Quindi normalmente ci sono due o tre uomini con i cani che pattugliano migliaia di chilometri. So this has been until now, except for the disaster of the American nuclear catastrophe that they did in the 60s. This has been the only military force in Greenland up till now. Fino adesso, a parte il disastro negli anni 60, la base militare, l'unica forza militare che esisteva in Groenlandia erano queste truppe che con le slitte di cani a due o tre guardavano, pattugliavano i confini, il mare, insomma, quello che c'era, il ghiaccio, no? il territorio. So this has all been changed by the Danish government with no consultation of Greenlandish people, even they have a formal parliament. Questo è stato cambiato dal governo danese, anche se c'è una nuova situazione in cui c'è addirittura un parlamento groenlandese. Another point which in the same geographical area, which is probably more acute, dangerous. un'altra questione che c'è nello stesso scacchiere geografico, che è probabilmente it's più pericoloso e più acuto. The question of the North Pole. La questione del Polo Nord. Because the waters from Greenland and up towards the North Pole has been now free of ice because of the climate crisis. Perché le acque adesso a nord della Groenlandia fino al Polo Nord sono libere dal ghiaccio perché per la questione climatica. Which means that the Russians for the first time can pass out, get out that way. E questo significa che per la prima volta i russi possono passare attraverso questo percorso. So up till now the North Pole has been overseen by the different forces around it. Fino adesso il Polo Nord è stato visto dalle diverse forze che dalle diverse nazioni che erano intorno ad esso, che sono intorno ad esso. Almost in a friendship club. Come in un club libero. Because they've decided North Pole, no weaponry, no military forces. This is neutral. Peace and love. E hanno detto adesso che il Polo Nord non è militarizzato, è libero di armi, tranquillo per pace e amore. This has definitely ended. Questo è definitivamente finito. So now this is the coming scenery of some heavy disagreements, to say the least. Adesso è diventato un luogo di grande disaccordo, per dire al minimo. So I don't have to tell you the tasks of what we are up, what we are standing, what is standing in front of us. Non devo spiegare a voi il significato di quello che sta di fronte a noi. If there was a lot of newcomers, I would maybe dive into this. Se ci fossero molti giovani compagni, entrerei magari più in dettaglio in questo, ma è quasi some young comrades. Yes. But so I'll just end by saying. Ma solo concludere dicendo. And this. What I've said here, I think, has been somewhat one-sided. Quello che ho detto fino adesso è in un certo senso unilaterale. Because I've not seen it in the framework of the EU and the whole of Europe. Perché non l'ho messa nel quadro della Unione Europea e dell'Europa in generale. But I think it's an expression of my own shock, so to speak. E beh, è un'espressione del mio shock personale, se si può dire così. When I discovered, looking out of the window, everything has changed. Quando ho visto che guardando dalla finestra, so, che tutto era cambiato. So I just had to tell you some of the thoughts I had at that moment. E quindi ho voluto suddirvi solo alcuni dei pensieri che ho in questo momento. So, thank you, comrades. Grazie, compagni. Allora, apriamo il dibattito. Io continuerò a tradurre, ovviamente, quindi chi parla parli con lentezza e tela. Renato Pomari. Sì, volevo farle due domande. Two questions. La prima è questa. Chiaramente l'adesione della Svezia e della Finlandia alla NATO è stato solamente adesso un ultimo passo, perché sono stati sempre paesi che sono stati contigui alla NATO, partecipando anche ad esercitazioni militari con le loro forze con la NATO. E quindi dice, of course there is only a final step because those countries are always linked to the NATO, participating in military exercitation. Mm-hmm. Okay. Yes. Exercise with the NATO forces. Ecco, se quindi questa adesione formale che è stata presentata hanno colto, diciamo, l'opportunità dell'aggressione della Russia all'Ucraina per entrare nella NATO. In the sense they have utilized this situation of the aggression of the Russia to the Ukraine to join formally the NATO. E c'era anche un'opinione pubblica che ormai aveva cambiato completamente idea rispetto ad una neutralità che ancora si manteneva, quindi sostanzialmente essendo favorevoli all'entrata della Svezia e della Finlandia della NATO. And this has been also possible because there is a changing in the public opinion that previously was for the neutrality, and now in this new situation the majority of the population is for the joining the NATO. E con la seconda considerazione proprio sulla Svezia. The second consideration is exactly on Sweden. L'uscita del governo del partito filo-curdo ha provocato le elezioni anticipate. The coming out from the government or the break with the government of the Filo-Kurd party provoked the anticipation of the election. Ha vinto un governo ed un partito di destra. There is the victory. Oh, sorry, but not forget. Ha vinto un partito di destra, un governo di destra. Oh, sorry, the victory was for a right-wing party and with a right-wing government. Che è appoggiato da una forza minoritaria, ma che è determinante, di un partito proprio filo-nazista. Which have the support external, but fundamental, from a minoritarian force, but which is relevant for this, which is really a neo-Nazi party. Ecco, questo è una situazione che cambia completamente il quadro ed è particolarmente inquietante e devastante. And this is a situation which has completely free framework. It is, com'è? Inquietante e devastante. Very bad, very make much anger, much tension, much fear, eccetera, eccetera. Inquietante, devastante, non te lo so dire. Ecco, queste sono le considerazioni che faccio. That are the considerations that you make. Ogni altro compagno? You prefer to ask, preferisce rispondere uno per uno perché. I think the Swedish Social Democrats has actually not been doing what the Danish government has done to copy the racism of the right populists. They have done something else. E io credo che il governo socialdemocratico, il Partito Socialdemocratico, quindi il governo socialdemocratico svedese, non ha per il momento copiato quello che hanno fatto i socialdemocratici danesi, cioè una politica di razzismo populista. They have, I think one can say that they have ignored the social problems of the deepest layers of the class. Credo che si possa dire che hanno ignorato i problemi sociali della parte più svantaggiata della classe. One of this is the ethnic minority youth. E questo è stata la, in particolare verso la gioventù delle etnie minoritarie. They have a higher proportion of everything bad in society. Unemployment, poverty, you name it. che ha tutte le cose peggiori, società, disoccupazione, povertà, eccetera. They're living in areas where there's hardly anybody else but ethnic minority living, so they're not being part of society, so to speak. Nei luoghi dove vivono solo non vivono altre persone che le minoranze etniche, che in certo senso non fanno parte, quindi, queste località della società nel suo complesso. So the party called the Swedish Democrats, Sweden Democrats. Il partito che si chiama Democratici Svedesi is a party that came into existence in the 80s, and it developed from a unification of small Nazi groups. Il partito da queste zone dove prevalentemente ci sono gli immigrati, sono le più povere, è nato il Partito Democratico, cosiddetto Partito Democratico Svedese, unificando diversi gruppi nazisti negli anni Ottanta. So since it came into existence, it has been taboo by all other parties to collaborate with this party in Parliament. Da quando è nato questo partito è stato un tabù per gli altri partiti collaborare con questo partito in Parlamento. So at the point where the Social Democrat minority government was toppled, this party, this Nazi party, made a racist campaign. Nel momento in cui il partito socialdemocratico è stato messo, cioè in minoranza, ha lasciato, questo partito nazista ha lanciato una campagna politica. And they did that on one particular basis, that there has been a rise in killing in the streets by ethnic minority youth. In killing, actually, cioè, a serious situation. Il fatto che c'erano effettivamente delle gang della gioventù immigrata che hanno aumentato il numero di morti nella popolazione per. It was, I don't remember the numbers, but it was alarming numbers of people killed. Non ricordo il numero delle persone, ma era veramente un numero allarmante nella popolazione di morti. So what happened was that this racist wave came at the same time as the NATO thing. And of course at the same time as Ukraine, which was the main thing to. Questa questione è arrivata allo stesso momento in cui questa questione degli omicidi, dell'aumento degli omicidi e questa ondata razzista in conseguenza è arrivata allo stesso momento in cui c'era l'invasione dell'Ucraina e quindi il problema della NATO. So the government formed, and it was very difficult to form it, it's like one month ago, it was formed by three small bourgeois parties. E quindi il governo a questo punto è stato formato da tre ed è stato molto difficile formare da tre piccoli partiti borghesi. Still a minority. Ancora una minoranza. So now, for the first time. Quindi oggi per la prima volta. The Sweden Democrats, this fascist party, was being the basis of the majority of the government. E solo da questo momento questo partito è diventato la base per avere una maggioranza in Parlamento. So to keep the taboo, they did not give them any posts in the government. Quindi per mantenere un po' il tabù non gli hanno dato nessun posto nel governo. But they gave him all sorts of very important posts in all the parliamentary subcommittees which are decisive in the development of the politics of the government. Ma gli hanno dato parecchi posti nelle commissioni e strutture parlamentari che sono molto importanti per determinare la politica del governo. So now is considered that Sweden is now heading for the same level of racism from the state as the Danish state. E quindi in questo momento la Svezia è considerato che abbia raggiunto lo stesso livello di razzismo che aveva prima di lui, di lei, il governo danese. I just give you one example. Vi do solo un esempio. They make a law in Denmark whereby the refugee who comes, he or she has to be searched. Se un esempio, una legge in Danimarca che se un rifugiato arriva e lui o lei. Do they have any jewelry? Rings. Ah, sono vestiti, non deve avere alcuna ferita. Gioielli. Ah, gioielli. Because if it's worth anything, that it has to be given to the state. Perché tutto quello che ha di questo tipo viene preso dallo Stato. I mean, it's like a Nazi type of thing, you know, you take from the Jewish population, you take their belongings. È una forma di politica come nazista, c'era come quando i nazisti prendevano l'oro agli ebrei. One of the new parties which have been formed in Denmark, there's now three racist parties, very racist, very right wing, competing with each other. E uno dei nuovi partiti razzisti formati in Danimarca, noi in Danimarca adesso abbiamo tre partiti estremamente razzisti che lottano l'uno contro l'altro. One of the leaders of this new party, a woman, she used to be a leading member of the leading bourgeois party and she used to be the minister of immigrants. Questa era prima una dirigente del maggiore partito borghese ed era il ministro della immigrazione. At the point where there was a 100 new laws of racist nature, she made a party. Nel momento festival. Nel momento in cui ci sono state 100 nuove leggi razziste, nei fatti razziste, ha realizzato un festival. With the lights representing all the rights the immigrants had had and blew them out. E con delle candeline che rappresentavano tutti i diritti che gli immigrati avevano in passato e spegnendole una a una. I think even your new government can learn something from some of the Danish ministers. Sorry? I think your new government can learn something regarding to be racist from some of the Danish ministers, you know. Ma what government? No, preparerà qualcosa come il vostro nuovo governo preparerà qualcosa che è simile a quello che sta facendo il governo danese. Sorry to be so long. No. Okay. Altri compagni? Ma finisce la Germania, fammi tradurre. No, perché te l'ho detto a te che dopo traduci. Traduco come voglio, me lo dimentico. Dice, questa situazione... This situation also new, in which all the... this militarism, which is a militarism which want not to make... conciliation We see in Europe all that we want not because somebody will might send arm at the same time a call for conciliation. That is not true apart from Germany. Because the leader European responsible for defense, so-called defense, is the leader of the association of the industry of armament. In Italy now, Crosetto is the former president of the military industry. This says this military interest became more and more important. Adesso alla fine Stoccolma, che è con il SIPRI, la capitale tra virgolette della pace, che voleva controllare, come non allineato, il commercio di armi per fermarlo o per renderlo più trasparente, almeno in questo senso, che fine ha fatto? È la vecchia, and the old Sweden that was at least in abstract term the country which want to limit all this, to make a world of peace. What are their, how is finished? What is the situation now? Tu vuoi aggiungere anche un'altra domanda? Sì. You want to reply now or? The question was, how did this all ended? Sì, come mai... La questione è come va a finire o perché si è arrivati a questo punto? No, l'ondata militarista della Svezia, del paese che non era nel loro DNA, no? Sì. Arriva e basta una guerra, una cosa così, non parte da loro la trattativa, ma parte anche loro l'adesione alla NATO. Quindi un intervento, non è che hai una domanda per lei? No, com'è stato questo passaggio culturale? Sì, what are the cultural... step from a situation in which Sweden appeared a country which like peace, etc., etc., mm-hmm. a country which is as military than the other. You prefer to reply? Yes. I think the process is the neoliberalist attacks on the working class, whereby you undermine the self-esteem of the class. Credo che la base è stato l'attacco neoliberale alla classe che ha distrutto l'autostima della classe stessa. You atomize the class because its organizations do not represent the class anymore. I mean, the top layer of the bureaucracy in the unions have become neoliberal. Perché ha distrutto la coscienza di classe, diciamo, della casa, perché le direzioni maggiori, direzioni più alte, insomma, il top delle direzioni della sindacale e dell'organizzazione della classe è diventata anche lei neoliberale. Some people on the left say, well, there's still a connection between the Social Democratic Party and the trade unions. I don't think this is true, because the relation is the neoliberal party and the neoliberal top of the unions have some coming together and they function more like you know, pressure group, or they talk together, how can we present this problem, you know. It's not as a union that represents in any way, I mean, even in a reformist way, the workers. So if you have this undermining of the class consciousness in a way also, the understanding of the class that it has some rights, it has the right to share a part of the wealth. which is the classical reformist way of thinking, this does not exist anymore. So when you have an atomized class with no leadership, you have a 40 years of attacks on the welfare, undermining it in every aspect. You have then the threat, which looks like the threat of a third world war. And you present this and say, and also at the same time you push in front the racist arguments and look at these, you know, terrible immigrants and so on. Then you have a perfect scene, I think. You have the perfect situation for a major attack on the class, which of course NATO membership is the most heavy attack on the class you can imagine almost. So, sì, sì, che, insomma, quando questa volta è andata un po' lunga, spero di riassumere tutto. Dice che alcuni dicono, sono 40 anni che c'è questa politica neoliberale dei vertici, e alcuni dicono che è come prima, ancora i socialdemocratici sono vincolati alla classe operaia attraverso i sindacati, eccetera. Dice, io non credo, perché oramai i vertici socialdemocratici sono vincolati ai vertici dei sindacati, non è più una politica che difende, fosse anche su un terreno riformista, la classe operaia. Per 40 anni la classe operaia è stata attaccata anche con la complicità, diciamo, dei vertici di questa organizzazione. Quindi la coscienza di classe è andata sempre più cadendo e sempre più avanzando invece l'attacco alla classe operaia. Perché questi gruppi dirigenti, anche dei sindacati, trasformati non solo i riformisti, ma gente che vede il suo gruppo come insieme con i vertici socialdemocratici per vedere qualche elemento di pressione da fare sulla borghesia, eccetera, eccetera. Non elementi di conquiste, per quanto minimali e parziali. In questo senso la classe operaia ha perso coscienza, e in questo senso è stata aperta, insieme con la propaganda demagogica sul razzismo, guardate cosa ci fanno questi immigrati violenti e delinquenti, per subire i peggiori attacchi. E nei fatti l'adesione alla NATO è una forma di attacco grave alla classe operaia. Compagna? I see that there is a very small group, at least I don't know very well, but it's a small group in Sweden who make opposition. Compagni, vi saluto, mi raccomando, seguite il Partito Comunista dei Lavoratori, perché noi abbiamo bisogno di voi, non possiamo restare questi vecchi qui, se no la rivoluzione è finita. Seguiteci e contattateci, quando volete. La sede del PCL è sempre aperta per discutere. Grazie, siete benissimo. Grazie e arrivederci allora. Ciao a tutte e a tutti. Sorry. Against NATO. This group make a couple of demonstration in Sweden, and I don't remember the name. È una sigla NEET NATO, una cosa simile. Come? Una cosa come NEET NATO, no NATO. Some like non NATO is not sure. And apart from knowing how much they have the possibility to survive in this situation. Ma la cosa che mi ha lasciato di stucco è che vengono appoggiati, o addirittura ci sono persone che ne fanno parte, che rappresentano chiaramente la destra, non solo per i toni razzisti, si sente, ma anche per delle posizioni civil sovraniste. But this group are appalled and let me what is shocked that there is also right-wing people which supported them and have some sort of racist and also sovranist position. Because they say the entry of the NATO is a risk, but not for our own wealth. Wealth, ricchezza, sì. Yete, you know? Wealth, yeah. No, I don't know this group. No, però lei dice non lo conosce. We had the, in the conference, in the ITU refounding conference, we had the workers' power people, and I talked to them about Scandinavia. They have a group in Udeboy. E allora lui, lei, nel nostro congresso che abbiamo fatto internazionale di rifondazione, quella che noi chiamiamo opposizione trotskista internazionale, c'era un gruppo invitato che si chiama Potere Operaio in varie lingue, perché in Inghilterra, e c'hanno un potere operaio anche in Svezia. E ha parlato col compagno che invece era del potere operaio tedesco, Arbeitermacht, e questo cosa gli ha detto? What say the camera of that what? They have a group in Göteborg and in Stockholm. Che hanno gente a Göteborg e Stoccolma. And I think one of the ways to find out if this group is very sectarian. E il problema è che questo gruppo è molto settario. Workers power in varie lingue, workers macht, worker power in Gran Bretagna, in svedese non lo so come si dice. And is to no, non erano questi. Certo. It is to approach these. Göteborg is not so far from Copenhagen. We could go and talk to them. If... Dice che lei può andare in Copenaghen anche cercare di conoscere meglio la situazione in Svezia, perché lei non conosce chi sono questa gente. C'è in internet. Internet, what is the name? Scusa, qualcosa di simile a non nato in svedese. If you try to see non nato in Sweden, you know if it's a group of left or another group of... Se posso aggiungere qualcosa, posso aggiungere qualcosa, posso dire, perché molto pochi lo sanno, ma in Ucraina chi è contrario all'adesione alla NATO, il gruppo principale che è contrario all'adesione alla NATO è l'Azov, i Pravi Sector. La posizione ufficiale del partito delle, vabbè, adesso non si chiama più Pravi Sector, come si chiama, blocco nazionale, insomma, quello che sia. I nazisti ucraini, che noi abbiamo sempre detto, sono una piccola parte, non so, però i nazisti ucraini sono contro l'adesione alla NATO, come del resto, credo, perché non li seguo molto, Forza Nuova, credo, che in Italia... Quindi può darsi che siano gruppi di destra, sovranisti, non è di destra, al gruppo, può darsi che siano appoggiato o comunque si sono allora lì si tratta di infiltrare, lì si tratta di vedere, perché naturalmente c'è anche una sinistra secondo noi pazzesca che dice se siamo d'accordo su questo pure i nazisti, no, invece noi dobbiamo dire d'altro canto se uno fa una dimostrazione di 100 persone e arrivano 50 nazisti in erboruti, magari non c'ha la forza di cacciarli, ecco, quindi deve sciogliere. In alcune occasioni anche in Italia, io mi ricordo una, non mi ricordo bene, forse è stato il Sicobas in quell'occasione, ma non sono sicuro, sulla questione del Green Pass, dove il Sicobas aveva la posizione, o chi altro, la CUB, non mi ricordo. qualcuno che aveva una posizione non propriamente come la nostra, però insomma non aveva una, non erano di destra, si è a un certo punto trovato che a una manifestazione convocata in Veneto, dove il Novax era parecchio forte, si è trovato pieno di fascisti. A quel punto lei ha sciolto la manifestazione, ecco, quindi non so, però è possibile, anche perché chi di noi è così vecchio da ricordarsi 68, non a Milano, credo, io non c'ero, ero a Genova, non a Genova, se non una persona, ma a Roma per esempio diversi gruppi di estrema destra cercarono di infiltrarsi all'inizio nel movimento, infatti li chiamavano i nazi maoisti, cioè poi quando si capì che era una provocazione finì a legnate e il povero Scalzone si prese il famoso banco dall'alto dei cieli, dall'alto della università, e rimase. Adesso ci sono i rossobruni, ma i rossobruni, allora intendiamoci, io voglio essere democratico, è chiaro che un rossobruno non è un nazista, qui parliamo proprio di fascisti, fascisti mascherati da rossobruni, che dicevano no, ma io non sono fascista, non sono nazista, sono per unire i rossi e i bruni, perché tutti siamo, quindi si presentavano. Poi ci sono i rossobruni veri, che sono da combattere, però è chiaro che io non posso dire a Rizzo che è un nazista, però gli dico che è un rossobruno. Sorry about the red brown in Italia. Di una normale sinistra un po' anacquata e molto ingenua. C'è anche la partecipazione di qualcuno invece destra. Però c'è un'opposizione in Scandinavia? Ah, questa è la domanda. Cioè, Terry, apart from this group which to were looking at the text appear not red brown, not an infiltration situation, etc. But there is an opposition to a decision at NATO in Scandinavia or not? Maybe I can best illustrate it by one event that happened. The government accepted the permanent presence in Denmark of US troops. E posso illustrarlo con un piccolo esempio. Il governo in Danimarca ha accettato la presenza permanente di truppe americane. This was about around just after the Ukraine, the Russia attacked Ukraine. E questo è stato subito dopo l'attacco della Russia all'Ucraina. And the International Commission in the Unity List, the left reformist. E la Commissione Nazionale sull'Europa, sull'Unione Europea, della Partito Rosso Verde. The Unity List. The International Commission of the Unity List. Sì, la Commissione Internazionale della Lista Unitaria dei Riformisti di Sinistra. They proposed a demonstration in front against this in front of the US Embassy. Questa Commissione Internazionale ha proposto una dimostrazione contro di questa presenza di soldati americani sul territorio danese di fronte all'ambasciata americana. This was being forbidden by the parliamentary group of the Unity List. Questo è stato proibito dal gruppo parlamentare della Lista Unitaria. Because we could not demonstrate against the US at this point when the Russia has just invaded Ukraine. Perché dicono che non, cioè hanno detto che non si può dimostrare, manifestare contro gli Stati Uniti in questo momento in cui la Russia invade l'Ucraina. This was used by a very inferior, unknown, neo-Stalinist small group. Questo è stato utilizzato da un piccolo, minuscolo gruppo neo-stalinista. They organized then a demonstration. Loro hanno organizzato una dimostrazione. I was following this very, very closely. It took place in about 3-4 days, this process of struggle, internal struggle. L'ho seguita molto bene, questo problema di lotta interna è durata 3-4 giorni e basta. And I was in a situation where I would do anything almost not to make this little Stalinist group start representing the anti-war movement in Denmark. Ho fatto il possibile perché non fosse solo questo gruppo neostalinista che rappresentasse l'opposizione alla guerra. So I addressed the IMT group, which I have a friendly connection to. Contattato il gruppo che è l'equivalente del gruppo di sinistra classe rivoluzione in Italia. And it turned out I was informing them moment by moment and telling them you can get into the front of this work if you act now. E ha detto potete essere in prima linea in questa battaglia se vi muovete adesso. You can draw up a international anti imperialist line in this movement. Potete portare una linea anti-imperialista e internazionalista in questo movimento se mi muovete ora. I think I at least had an exchange of about 15 mails with them asking them to move. 50 or 15? 15 in this. Quattro giorni siamo scambiati circa 15 mail tra gli uni e gli altri in questi pochi giorni rispetto alla sua proposta. Explaining che now. Loro sono noi siamo un piccolo gruppo in Danimarca, non lo potevamo organizzare da soli, anche se siamo in un partito più grande che però non ci segue. Loro lo potevano organizzare perché erano più forti. It's a group of it's about 4 years old, 4 or 5 years old in its present form, and it has recruited 100 youth since it started in the universities. È un gruppo che esiste da 4-5 anni e ha reclutato un centinaio di studenti nell'università. They did not want to do anything. Non volevano fare niente. And generally, their only activity is to study Engels and Marx, and they have very good, well-educated cadres. They have never been out of the study circle in all their lives, except standing in front of the university selling their magazine. E perché sono gruppi che tipo appunto come questo qui che c'ha 100 studenti che però stanno solo nei loro gruppi di studio. Non escono, ma l'unica cosa che fanno fuori dai gruppi di studio dell'università è stare di fronte all'università a vendere i loro giornali, i loro libri, eccetera. The other possibilities was the USFI section. L'altra possibilità era la sezione cosiddetta segretariato unificato, che è il SAP di cui lei come minoranza, il Partito Socialista Operaio, cui lei come minoranza fa parte. They are completely integrated as a organic part of the Reformist Party, of the Left Reformist Party. Sono completamente integrati in questo Unity List, questo partito riformista di sinistra. It's this organization of about maybe 80-90 persons. È un'organizzazione di circa 80-90 militanti. It has been the same numbers since they joined. Was part of forming the Unity List. È lo stesso nome quando io l'ho raggiunta e poi fece parte dei fondatori della lista unitaria con altre organizzazioni. 43 years ago. 43 anni fa. So they have gained nobody, nothing. Non hanno guadagnato nessuno in questo periodo. And they are completely integrated politically. Era totalmente integrato politicamente. So there was no possibility of them taking doing an independent action. E quindi è stato impossibile che loro prendessero una iniziativa indipendente. This is the sad story about the anti-war movement in Denmark. questa è una brutta storia. Sad cosa vuol dire più? Triste? Yes. La triste storia del movimento anti-imperialista in Danimarca. It's a very bad note in the meeting. È un modo molto negativo di chiudere il meeting, ma è la realtà. Va bene, compagni, c'è qualcun altro? C'è ancora un po' di tempo se si vuole, se no. Chiudiamo. So. Penso. Il nostro grande Vincenzo. No, io pensavo al fatto che prima diceva Iette, ad esempio, giustamente, della sinistra riformista, soprattutto mi riferisco alla situazione finlandese, non posso non pensare anche alla rivoluzione del 1918 in Finlandia. Quando Iette referring... When yet referring to the situation of the left, I don't take the, okay. I remembered the event in Finland, the revolution of 1918. Con il fatto che fu determinato, tra parentesi, quasi in contemporanea con l'Ungheria, il fatto che all'epoca sia in Ungheria sia in Svezia, in Finlandia, non ci fosse ancora un'organizzazione indipendente, ma riformisti e rivoluzionari stessero nella stessa organizzazione. The fact that both in Hungary, for example, and which is in the same time, and in Finland, reformists and revolutionary stay in the same organization. Con la differenza che se in Ungheria c'è stata la repressione dell'ammiraglio Otti e quindi tutte le forze del movimento operaio sono state messe fuori legge, finisco il discorso, una forte differenza, una parte della socialdemocrazia finlandese, diciamo nei fatti, boicottò il processo rivoluzionario e dopo la sconfitta della rivoluzione all'opera delle guardie bianche si reinserì e sostenne quel governo che era nato proprio dalla sconfitta della rivoluzione, perché purtroppo la direzione del movimento operaio finlandese si era sempre più ispirata al, diciamo, alle direzioni del movimento operaio tedesco, austriaco, quindi con una fortissima influenza riformista. Ok, ciao. There is a difference because in the two situations, because on one hand the Admiral Horthy win and destroy all the forces of the workers' movement. On the contrary, in Germany, in Finland, the revolution was blocked by the Social Democratic wing of the United Workers' Party, and later on the right wing of this Social Democratic not only contribute to defeat the revolution, but also join the new counter-revolutionary government. And this is the sense of the negativeness of the reformist influence in the workers' movement. Okay, I think you say two words, and yes. Because otherwise we yes. try in too small. Okay, comrades, before we are being too intimate here. Compagni, prima di diventare intimi. And becomes a little secret club. Diventare un poco stanchi. All our attempts are in the opposite direction. Dovete andare tutti in varie direzioni. So in this case we're not forced to be few. Non obblighiamoci ad essere pochi. But we can say thank you and goodbye. Ma volevo dirvi grazie e arrivederci. So that I will thank you because you came here, and I did not tell you when we started the meeting, that I've been looking forward to see the PCL comrades face to face. E non ho detto all'inizio, volevo dirvi che non ho detto all'inizio che uno dei miei obiettivi in questo giro è anche vedere, conoscere personalmente, face to face, i compagni del PCL and some other camera which and might some other be comrades. In the PCL tomorrow. Yes, yes, I'm sure they will. È sicura che lo sa. Thank you, comrades. Thank you. Ma prendi la tessera aderente. Ad ogni modo, questo è stato una cosa che mi fa molto piacere. Preciso che la compagna è già stata a Venezia, domani è a Torino e dopodomani a Genova. Un altro compagno che qualcuno conosce, Peter, è stato ieri a Roma, adesso starà finendo anche lui ad Arezzo, che nella nostra piccola forza è un punto in cui c'è un gruppo abbastanza significativo, dopodomani a Bologna e infine con un volo aereo va a Catania l'ultimo giorno prima di rientrare negli Stati Uniti. Quindi due compagni internazionali conoscono, ma soprattutto parecchi, insomma noi siamo molto sparsi, piccoli gruppi, tanti piccoli o piccolissimi gruppi sparsi in tutta Italia, ma una parte significativa dei nostri compagni potrà avere un dialogo con due nostri compagni internazionali e loro potranno conoscere, al di là dei compagni che sempre vedono nelle riunioni internazionali o qualcosa del genere. Grazie a tutti. And you have to hurry up if you are to catch up with the Padua guys. Yes. Perché Padova sì, allora io perché non so, Padova e Venezia è un gruppo giovane, non pensate che in tutta Italia la media è questa. A Padova